Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. L'ospite, o meglio la ospite, che tra poco saluterò e vi presenterò, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, fa un'attività piuttosto inconsueta, insomma, per diciamo dei pregiudizi culturali che ancora profondamente ci sono, ma scopriremo quanto è interessante la sua vita e quello che fa. La scopriremo pian piano, dicevo, però vorrei, come sempre, che si cominciasse a disvelare lei con tre aggettivi adesso all'inizio. Se dovessi dire, come ti potresti descrivere con tre aggettivi? Tre aggettivi direi genuina, determinata, ma anche godereccia. Non so quanto tu te lo possa permettere, almeno su certi piani, in altri sicuramente esatto. Sì, questa della godereccia. Perché? Perché Simona Galassi è la campionessa del mondo di pugilato della categoria pesi mosca, un fuscello praticamente, insomma una cosa leggerissima. Simona, intanto complimenti, perché mi sembra che il titolo poi tu te lo sia riconfermato a ottobre scorso, quindi abbastanza di recente. Io ho già fatto due difese, una a luglio e una ad ottobre, quindi già bene o male ho fatto un anno di conferma del titolo. Molto intenso, perché tu avevi iniziato, mi sembra, adesso poi parleremo di tutta la tua storia, però il titolo l'avevi rubato a Stefania Bianchini, se non sbaglio, nel marzo 2008. Sì, sì. Ecco, e poi lo hai riconfermato ottobre 2008 sempre. Ma dicevamo, campionessa del mondo dei pesi mosca, per chi non fosse molto addentro, diciamo, al tuo sport, un peso mosca donna quanto deve pesare il suo peso? Deve non superare il giorno del peso i 50 e 800, quindi deve stare al di sotto di quella categoria lì. Abbastanza accettabile se una non è molto alta, però, no? Sennò poi diventa difficile riuscire a pesare 50 kg. Sì, sicuramente c'è sempre un rapporto ragionevole tra altri sei peso, io sono 1,65, sono già abbastanza alta per la mia categoria, in genere ci sono delle atlete ancora più piccoline. Per cui magari è più facile, ecco, pesare. Allora, tu prima, quando ti stavo chiamando, mi hai detto che cosa stai facendo in questo momento? Una torta. Allora, a parte la fame che immediatamente mi ha aggredita, ma tu dicevi sei godereccia, e in realtà per mantenere questo peso, insomma, al di là di tutta l'attività fisica che fai, quindi bruci, però te la puoi permettere una torta? Ma sì, diciamo di sì, nel senso che effettivamente io sono perennemente a dieta, perché per mantenere questo peso non è facile. E la fortuna è che mi alleno tantissimo, quindi brucio anche tanto. Ho detto godereccia perché lo intendo in senso lato per tutti gli aspetti della vita, golosa, certo. Però sono anche molto golosa, quindi amo molti dolci, amo molto mangiare e godermi il mangiare, no? Quello che ho sotto mano. Certo, è un piacere. Però che cosa per curiosità, no? Poi le donne sono molto attente, ma anche gli uomini cominciano ad essere molto attenti a questi aspetti. Che cosa ti puoi concedere nell'arco di un mese, che so? Ma in realtà mi potrei concedere delle piccole cose, ad esempio mi stavo facendo una torta a cioccolato e banane, che non è chiaramente una cosa ipocalorica, però so già la quantità che dovrò mangiare non sarà tantissima, e soprattutto la potrò mangiare solo al mattino, non me la posso, oppure un piccolo pezzetto come merenda. Insomma, alla fine sono fortunata, come dico, perché ho un buon metabolismo, poi brucio tanto, eccetera. Però devo stare molto, ma molto attenta poi rispetto a quello che vorrei io nelle quantità, quindi piccole soddisfazioni a piccole dosi. Però dicevamo, hai grandissime soddisfazioni, anzi una enorme, perché sei campionessa del mondo e insomma chi più di te. Però ritorniamo un po' indietro con il tempo, Simona Galassi, perché tu mi sembra che intanto sei nata a Forlì, più precisamente a Santa Maria Nuova, se non sbaglio, in provincia di Forlì. Nata a Forlì e poi ho sempre vissuto a Santa Maria Nuova. Quindi il tuo luogo di nascita è Forlì. 1972, classe 1972, sei nata quindi in una terra, la Romagna, che spinge a essere goderecci inevitabilmente. Esatto, no? e anche genuini, cioè è anche genuino, giusto? Perché sai, un modo di essere molto semplice, molto naturale, ed è legato anche alla mia terra, cioè sento di essere simile alla mia terra in questo senso. E la determinazione da dove ti è venuta? Da un genitore, da qualcosa di cui hai fatto esperienza nella vita all'inizio? Che cosa? Ma no, poi sono sono cose che scopri maturando, sono delle caratteristiche che ti accorgi di avere quando poi hai un po' più chiaro, no, nella tua testa le idee di quello che vuoi fare. Io mi sono accorta di essere molto determinata quando ho trovato le cose che mi piaceva fare proprio, davvero bene. Quindi quando sono indecisa sono assolutamente, mi avvilisco da sola, però quando ho le idee chiare, in quel caso lì allora divento veramente determinata. Vai proprio a testa d'ariete. Però stavo dicendo, non mi sembra che tu questa scoperta l'abbia fatta prestissimo, perlomeno per quanto riguarda il mondo dello sport, perché ormai si inizia veramente quasi in fasce, no? Per quelli che diventano dei campioni. Tu non in modo molto prematuro hai iniziato con la boxe. No, infatti, box. Io vivendo in un paesino così piccolino, ho sempre avuto in realtà nella mia testa da bambina l'idea di fare sport, volevo fare tantissime cose, eccetera. Però la realtà del paesino offriva ben poco, ho fatto tennis da proprio bambina e poi ho iniziato con quello che c'era nella realtà qui, cioè la pallavolo, ho giocato 10 anni a pallavolo da ragazzina, anche a livelli non bassissimi, sono arrivata a giocare in Serie C, siamo partiti proprio dal basso, arrivati fino alla Serie C, eccetera. Però chiaramente era quello che mi offriva, ma ho sempre avuto comunque sin da bambina una grande passione per gli sport, tant'è che sapevo già che volevo fare la scuola, l'ISEF, perché mi piaceva approfondire questo argomento. Ecco, qui ti interrompo solo brevemente, Simona, perché hai fatto bene a ricordarlo, tu sei una campionessa laureata con una laurea in scienze motorie. Vorrei qui tirare un po' l'orecchio ai tantissimi campioni maschi italiani, no, perché direi che forse proprio una minoranza di loro laureato, non perché sia un demerito, ma per questo dimostra che però le donne anche nel calcio, anche in altri sport, si danno da fare su più piani e insomma ce la mettono tutto, si fanno, come si dice, un mazzo così, no, nelle cose. Sì, non... sì, però sta cambiando un po' anche tutto il pugilato, nel senso che adesso esistono anche gli universitari di pugilato, cosa che penso che una decina di anni fa era una cosa impensabile, no, un pugilato come esatto, in altri sport. Esatto. Quindi stavi dicendo che a un certo punto, insomma, lo sport ti è sempre piaciuto, è sempre stato un po' nel tuo DNA questa passione, ma quando poi sei arrivata proprio alla boxe? Ma molto tardi in realtà, perché io stavo già frequentando l'ISES, avevo esaurito tutta l'energia che avevo messo nella pallavolo, nel senso che non mi dava più, non ti stimolava più, non avevo più voglia di farlo, almeno se non a quei livelli. E quindi ho chiesto così a un amico casualmente cosa potevo fare, perché comunque ferma per me era impossibile stare, ho sempre avuto l'esigenza di sfogarmi, di fare qualcosa a livello mio personale, e lui mi ha portato in una palestra. A quei tempi la box femminile non esisteva, era ancora il 94 più o meno, e io andai in questa palestra dove si faceva kickboxing, gli arti marziali, e proprio lì è scoccata la passione, una scintilla immediata. Da quando sono andata a vedere come si svolgeva, semplicemente il giorno dopo ho iniziato, da lì nel giro di pochi mesi l'allenatore si è tra virgolette innamorato, nel senso che ha visto che ero brava, ero portata, eccetera, mi ha poi proposto l'idea di fargli un combattimento, e da lì un insieme di cose mi hanno portato a diventare campionessa, prima di kickboxing e poi col pugilato. Il pugilato è stato, diciamo, è stato lui a chiamarmi, no? Non ho pensato io di fare questo passaggio, ma mi è stata fatta questa proposta proprio dalla federazione. C'erano i primi mondiali e lì cercavano delle atlete già esperte, perché creare dal nulla delle buone atlete era impossibile, e quindi ho voluto provare l'esperienza del pugilato, e lì ho trovato davvero lo sport che era fatto per me. Storielle, storiacce. Proseguiamo insieme qui a Storielle, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, sempre Roberta Giordano con voi, e mia ospite oggi è la campionessa del mondo di pugilato della categoria pesi mosca, quindi non si scherza, Simona Galassi, che ci stava un po' raccontando come, pur essendo sempre stata predisposta agli sport sin da bambina, nata a Forlì nel 1972, ha scoperto la box un po' tardi. Già si era laureata in scienze motorie con tesi sul pugilato, è entrata in una palestra facendo kickboxing, kickboxing, era diventata campionessa di quello sport e poi però è stata notata, insomma, e lanciata verso il pugilato professionistico con la grandissima soddisfazione che poi ha ottenuto. Ma Simone, se dovessi dire, i tuoi genitori in questo ti hanno supportata, ti hanno incoraggiata, magari un po' di diffidenza all'inizio, come è andata? No, mi hanno incoraggiata. Quando ho iniziato con la kickboxing erano molto preoccupati, conoscevano poco la realtà, comunque era uno sport difficile, insomma, anche da vedere, da supportare per chi ha dei legami stretti, no? Con quelli che lo praticano. Vederti prendere botte, insomma, esatto, a parte darle. Ben capire. Ecco. E invece è stato meno traumatico il passaggio al pugilato, perché il pugilato fatto all'inizio ho iniziato col dilettantismo, quindi sai, c'è un caschetto, le protezioni, c'è un regolamento, c'è una serietà, un'istituzionalità nella cosa che è comunque assolutamente, al di là dell'apparenza, molto ma molto sicuro. E lì si sono tranquillizzati, soprattutto la mia mamma, che era la più preoccupata della famiglia. Invece mio babbo, da lì ho scoperto in lui un grande appassionato, un grande fan, è proprio diventato il mio primo fan, me lo sono ritrovato vicino, molto più vicino, diciamo un aspetto suo che io non conoscevo, questa sua passione per questo sport, io non lo conoscevo, cioè l'ho conosciuto solo praticandolo in prima persona, quindi questa cosa mi ha dato delle emozioni nuove nei confronti di un genitore. Certo, una bella scoperta appunto scoprire che il proprio padre si entusiasma a una cosa che stai facendo e probabilmente magari non sarebbe venuta fuori quella sua passione che aveva se tu non ti fossi... assolutamente, io l'ho scoperto dopo che lui da giovane voleva praticarlo, ma poi erano i tempi in cui c'era povertà, per cui doveva per forza lavorare, non si poteva scegliere di fare uno sport per vivere soprattutto, e quindi sono cose che ho scoperto comunque dopo. Che strano, no? È come se ci fosse stato un segno del destino, anche se io personalmente non credo in questo, però mi affascina comunque l'idea. Quali sono i pregiudizi maggiori che tu hai trovato o ancora magari trovi rispetto a te stessa, una donna che fa pugilato, che nonostante appunto stia riscuotendo più successo ultimamente è sempre vista come una cosa un po' strana, un po' inconsueta, no? Ma non lo so, io ho sempre avuto la fortuna di essere comunque un atleta di elite, cioè ho vinto da subito e ho avuto anche, diciamo, se vogliamo, più rispetto di tante altre persone, magari altre persone in palestra hanno trovato delle realtà ben più dure, ben diverse, però io mi sono accorta anche di una cosa, che il rispetto l'ho ottenuto anche molto tramite, cioè, il far vedere la mia serietà in palestra, negli allenamenti, nella dedizione a quello che facevo, in come portavo avanti la mia attività. Però c'è molta, tra virgolette, ignoranza, cioè comunque ignoranza nel senso etimologico, cioè di non sapere, di non conoscere. Non conoscere lo sport, non conoscere il nostro sport, la realtà femminile, quindi c'è ancora nell'idea, magari, ecco, io pratico pugilato, l'idea di tutti prima di vedermi è di immaginarsi un uomo coi capelli lunghi, per dirti, comunque un aspetto molto mascolino di una donna che vuole fare una cosa da uomini. In realtà mi vede, sono una ragazza normalissima, proprio femminile, normale, certo più muscolosa, molto muscolosa, ma è anche bello vedere questo fisico. Assolutamente normale, e c'è uno stupore, una meraviglia che ti fa capire comunque molto sul fatto che c'è, appunto, non si conosce in realtà questo sport. Ma se tu dovessi dire, Simona Galassi, gli uomini come si relazionano a te, proprio in virtù anche del fatto di essere un atleta professionista e di uno sport dove le donne non sono moltissime? È difficile dirlo, perché in realtà sicuramente in molti c'è molta più attenzione, nel senso rimangono un po' più intimoriti, sebbene che ti dico non sia una persona aggressiva nell'aspetto o anche nei modi, no? Nei miei modi normali, c'è però magari l'idea di fare più attenzione comunque. Credo che sapresti difenderti molto bene nel caso, no? Sì, forse, ma sai, nella vita senza regole è difficile difendersi, perché la vita reale è ben dura, ben più dura forse anche del ring. Hai ragione. Però in tantissimi scatta proprio anche quell'idea quasi malsana di sfida, di competizione, di gioco, di dire mi piacerebbe fare un incontro sfidarti con te, tutte queste cose qui un po' così abbastanza sciocchine, però che sono abbastanza anche regolari, nel senso che capita spesso di sentirle. Invece le donne? Invece le donne hanno molta stima in genere ho veramente tantissime donne ammiratrici che ammirano comunque il fatto che vedano in me la determinazione, il fatto di fare delle cose fatte bene, però, cioè nel modo giusto, senza strafare, anche con, cioè lo faccio proprio per me stessa, e questo credo che venga fuori, quindi che non voglia sbattere in faccia agli altri le mie cose, ma che voglia semplicemente avere il diritto di poterle fare e di divertirmi anche nel farlo. Molto bella questa cosa che hai detto, ma con Stefania Bianchini, alla quale dicevamo già a marzo scorso hai rubato il titolo mondiale e riconfermato poi a ottobre, che rapporto hai? Ma non c'è un rapporto in realtà, nel senso che c'è stata molta competizione, normale. Perché purtroppo siamo due atlete di alto livello nella stessa categoria italiana, cioè quando in realtà per un mondiale dovresti incontrare tutto il mondo, ci si ritrova fra due italiane. Questo è stata una cosa da un lato bella, perché ci ha fatto crescere molto, nel senso anche, sai, nel fatto di volersi imporre, di volersi dimostrare la numero uno, la campionessa. Però chiaramente c'è stata questa rivalità fortissima, con sempre anche un massimo rispetto che devi sempre avere nei confronti dell'avversario, certo. Per cui ci siamo anche riviste, ci parliamo, ci confrontiamo anche se vogliamo, però è chiaro che siete rivali, insomma, di rivalità alla fine rimane sempre, come giusto che sia, tra le altre cose. Tutto questa vita quindi così ricca, con questa grande soddisfazione, però molto disciplinata, come dicevi, perché questi grandi risultati si raggiungono soltanto con grande determinazione, come dicevi, con sacrifici, ti è costata, ti ha fatto pagare dei prezzi alti, non so, gli amici, la vita privata, altre cose, il tuo desiderio di viverti la vita in modo un po' godereccio, ti ha privata di qualcosa? Sicuramente di tante cose, nel senso che comunque la mia vita è molto regolare, mi alleno due volte al giorno, poi lavoro anche in palestra, per cui ho veramente poco tempo libero per me, per i miei momenti ricreativi e per gli amici o le relazioni con gli altri. Però c'è una cosa importante nella mia vita, è il fatto che magari mi piacciono i rapporti veri, reali, per cui anche il fatto di non vedersi per tanto tempo, poi alla fine se hai delle amicizie vere, dei rapporti veri, poi basta rincontrarsi anche dopo un mese o due mesi che le è cose come se non fosse sono cambiate, passato il ecco, tempo. Quindi magari conto molto su poche amicizie, però che siano vere, genuine, reali. Poi io mi auguro nel futuro di avere momenti anche più tranquilli, dove posso godermi di più certe libertà. Ecco, infatti proprio questo, Simona Galassi, stavo per chiederti, no? Pensando a quello che raccontavi, se tu ti immagini mai nel tuo futuro o vivi intensamente il presente, dici poi al futuro ci penserò quando si arriva a quel momento. Sì, no, io vivo molto il presente, faccio fatica a progettare a lunga data, tant'è che ti dico, io mi scrivo giorno per giorno cosa farò domani, perché già faccio fatica a progettare il domani, nel senso proprio il giorno dopo, per cui figuriamoci a pensare cosa farò poi nel futuro in realtà. Mi piace proprio vivere il presente, godermi la vita in quel momento, cioè vivere quello che sto vivendo e non pensare al dopo più di tanto. È chiaro che ogni tanto qualche idea me la posso anche fare, ecco, sicuramente la preoccupazione maggiore è quella che quando smetterò prenderò 10 kg subito, perché amo godermi la vita, soprattutto culinaria qui della Romagna, non solo, sarà durissima per me, insomma, questo cambiamento di stile di vita, però spero alla fine che poi nel cambiamento cambia anche l'idea che ho adesso in questo momento di vivere, cioè uno si deve adattare al momento che sta vivendo, per cui è meglio non preventivare queste sciagure sane che speriamo possano anche non avvenire. Saggia campionessa Simona Galassi, a che cosa nella vita, delle cose che non ti piacciono, tireresti un pugno in modo anche simbolico? Oh, guarda, in sto periodo che ascolto i telegiornali tirerei un pugno veramente alla violenza che viene fatta verso le donne, in particolare con la cronaca di questi ultimi tempi, ma alla violenza che si fa soprattutto ai deboli, cioè mi urta tantissimo questa cosa, quindi vorrei essere veramente tanto forte da poter scagliarmi contro le persone che ne approfittano, insomma, in questa maniera. Come non essere d'accordo con Simona Galassi? Le prossime sfide? Io sì, sto preparando la mia difesa mondiale, sarà molto probabilmente a Milano il 27 di marzo, quindi sono in piena preparazione perché vorrò ancora una volta mantenere la cintura e quindi sarà per me un obiettivo molto importante. Questa che senti è la lampada di Aladino che propongo in chiusura a Simona Galassi, campionessa del mondo di pugilato nella categoria dei pesi mosca, per chiederti cosa domanderesti come desiderio per la tua vita. Oddio, chiederei di continuare ad essere fortunata come lo sono stata fino ad ora, nel senso che comunque sì, ho avuto dei momenti di difficoltà eccetera, però mi sento abbastanza baciata dalla fortuna, nel senso che mi sembra quasi avere un angelo custode, no? Nei momenti difficili, anche quelli tremendi, difficili, poi viene anche che fortuna, per fortuna mi sono salvata da tutto, quindi vorrei avere questo angelo custode che mi segue un po' in tutta la mia vita, per cui essere bene o male salvata in tutte le situazioni più difficili che possono capitare nella vita. Raccomandiamoci allora all'angelo custode che la fortuna continui a baciarti. Grazie Simona Galassi. Grazie a voi. Ciao Simona.